Araba fenice, te prego affinché curi ogni cuore, ogni mia cicatrice. Fammi rivolare ogni volta che sento questo mondo infame, mostro. Sono maestro d'arti vostro, per te estro, scrivo su un foglio, destrosa mano piglio a piglio, coccodrillo piangendo, anno per anno, piglio ripiglio, salto pungendo, accademie d'arti con il loro certificato modesto, losco, dio funesto, fosco, fuego de torba, lirica in whisky, annego, rimedio ago a rincuscire tasche, o spendendo pecunie troppe, cantante in tona tosca, vasca in sangue annego, rileggo, compongo, fingo, piglio urlando cresta, festa, per favore esca, nella mia testa tresca di te, mia sempre, mentre penna, serpente, segue d'inchiostro mille miglia, biglia, scagliata, impazzita, alla testa ferita, di lui che lodi, mitra, penna, uccidili tutti, con dardi, fuoco, fame, petardi.